Crescono i malumori, Scalfarotto Radio 24, subito il congresso. Addio al padre degli Indignados, è morto lo scrittore francese Stefan Hessel. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati, grande attese, allora sentiamo subito che succede in Piazza San Pietro. Katia Caramelli. Sì, buongiorno, ha fatto un lungo giro in Papa Mobile Benedetto XVI per salutare le migliaia di fedeli presenti in piazza, una piazza davvero stracolma che ha acclamato il Papa per l'ultima udienza del suo pontificato. Tra poco Ratzinger terrà la consueta catechesi del mercoledì, mentre al termine dell'udienza non ci sarà il baciamano vista l'elevata e l'eccezionale affluenza per un'udienza generale. Molti dei cardinali che parteciperanno al conclave sono già arrivati a Roma, domani saranno in sala Clementina per il commiato nell'ultimo giorno di pontificato. Nel pomeriggio di domani, sempre intorno alle 17, il Papa lascerà in elicottero il Vaticano alla volta di Castel Gandolfo e dalle 20 di domani sera scenderà il sipario sul suo pontificato e si preparerà il conclave, la prima congregazione generale dei cardinali, con ogni probabilità il 4 marzo. E per il momento è tutto. E grazie a Katia Caramelli. Torniamo anche al dopo voto. Dall'Italia un passo verso l'ignoto. Questo è il titolo che il Financial Times dedica questa mattina a un editoriale sulla situazione italiana. L'area euro dovrebbe prepararsi a nuove turbolenze, scrive anche il Wall Street Journal. Mentre gli italiani esplorano la possibilità di alleanze, l'esito del voto italiano, si legge, ha fatto tornare la tempesta sui mercati nel timore di una crisi del debito di un'eurozona nuovamente debole. Timori condivisi dall'agenzia di rating Moody's, che questa mattina ha fatto sapere che l'esito inconcludente delle elezioni parlamentari in Italia è negativo per il rating sovrano, dal momento che aumenta la possibilità di nuove elezioni, prolungando l'incertezza politica. Allora torniamo ancora alle borse. Deborah Rosciani. C'è stato in avvio di seduta un modestissimo tentativo di rimbalzo, ma già tornano le vendite a Piazza Affari, anche sulle altre piazze europee, particolarmente in Piazza Affari le vendite colpiscono le banche, gli indici appunto virano in ribasso, anzi adesso di nuovo su, il FTSE MIB comunque fermo sulla parità, non riesce a mantenere il progresso avviato ad inizio appunto seduta, più 0,3% per Parigi, ferma anche Francoforte, Londra più 0,09%, pure molto modesta, Madrid più 0,40%. Mediobanca perde 5 punti percentuali, al momento è sospesa, il titolo è finito in asta di volatilità e poi nuovo calo molto forte per Banca Monte dei Paschi in ribasso di 3 punti. I titoli invece che oggi riescono a recuperare qualcosa, TOTS più 1,40, Tenaris più 1,35, Autogrill più 1,24, ma appunto il recupero delle banche è fragilissimo. Lo spread fra BTP e Bund è molto alto, a 343 punti base in attesa del l'asta dei titoli di Stato prevista per oggi, il Tesoro colloca BTP a 5 e 10 anni. Per ora è tutto. Grazie ancora a Deborah Rosciani. Sul fronte politico si aspetta il 15 marzo per l'insediamento delle Camere, poi ci saranno le consultazioni al Quirinale, giochi aperti in queste ore per il nuovo governo dopo l'apertura di ieri di Bersani a Grillo, ma nel PD i malumori ormai non si nascondono più e c'è chi invoca subito un congresso, così Ivan Scalfarotto, vicepresidente PD al microfono di Alessandro Milan. Secondo me il congresso dovrà mettere al centro della discussione esattamente questo, e che forse non dobbiamo andare al congresso in settembre-ottobre, il congresso bisogna farlo subito, bisognerebbe pensare e mettere al centro del congresso un'idea di questo partito in questo tempo, che è un tempo nuovo e il partito non può che avere diciamo degli occhi e un cuore nuovo. L'intervista integrale sul nostro sito www.radio24.it. È morto a 95 anni Stefan Hessel, l'autore del libretto Indignatevi, 20 pagine divenute nel 2011 un caso editoriale e politico che ha ispirato il movimento giovanile degli Indignados. Il politico, scrittore e diplomatico nato a Berlino da una famiglia ebrea, aveva combattuto nella resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale ed era stato deportato nel campo di concentramento di Buchenwald. E un'ultima notizia prima di chiudere: la class action della birra negli Stati Uniti è scattata contro la società produttrice della Budweiser, accusata di aggiungere acqua nella nota birra per vendere più bottiglie. La denuncia collettiva è stata presentata in un tribunale di San Francisco in California con l'accusa di violare le leggi a tutela del consumatore, accuse respinte dalla società. Noi ci fermiamo qui, ancora buona giornata da Anna Migliorati, vi ricordo GR24 torna alle 12. Il gastronauta. Un caloroso saluto dal vostro gastronauta. Oggi vi porto a Milano. Vi porto a Milano in un locale aperto da pochi mesi che si chiama Aromando, dal cognome della cuoca, e gestito dalla cuoca appunto e da Savio Bina, che è un sommelier molto molto conosciuto. Ebbene, questo è un locale molto divertente perché c'è una calata negli anni 50-60, veramente l'arredamento e l'allestimento è anni 50-60, autentico, quindi non c'è niente di taroccato, e la cucina si rifà più o meno a quegli anni, insomma. Il ritorno degli anni 50-60 sicuramente è in corso. Ebbene, a mezzogiorno si possono mangiare appunto della domenica, solo della domenica, cappelletti, gallina bollita e mostarda e la torta di mele. Ebbene, siamo veramente negli anni 50-60, però non si mangia solo questo, ovviamente. La carta anche qui è discretamente vasta, si possono mangiare dei paccheri ripieni, la crema di zucca con moscardini, un agnello cotto a vapore, il dolce può essere lì flottando, appunto tornando indietro nel tempo. Ma devo segnalare in particolare una carta dei vini. Bene, non poteva essere sicuramente diverso, visto che l'ha curata Savio Bina. Una carta che non ha dimensioni enormi, non è una Bibbia come si trovano in tanti locali, è sicuramente non ristretta, però ci sono delle chicche dentro davvero molto interessanti. È una carta sicuramente che può essere così un modello sicuramente per il futuro. Bene, lo ripeto, il ristorante si chiama Aromando ed è a Milano. Un caloroso saluto dal vostro gastronauta. Sabato alle 11, il gastronauta con Davide Paolini. Cisal informa. L'istruzione è il miglior investimento che uno Stato possa fare. Ne parliamo con Rino Di Meglio, segretario nazionale CGU CISAL. Ma guardi, avere un buon sistema di istruzione è il miglior investimento che un paese possa fare per il proprio futuro. Proprio nei periodi di crisi come quello che noi viviamo oggi, i paesi più sviluppati stanno dedicando molta attenzione alla loro scuola e alle problematiche. Il nostro paese, l'Italia, è invece culturalmente indietro. Si investe poco sulla scuola e quello che più preoccupa è che il dibattito sull'istruzione viene spesso affrontato in modo molto superficiale. Devo anche dire che la retribuzione dei docenti è un indicatore della considerazione sociale. Si è creato un abisso tra lo stipendio, per esempio, del professore di scuola superiore a fine carriera e quello iniziale di un docente universitario. Una volta queste retribuzioni erano identiche. Qualcuno si assumerà la responsabilità di questa situazione che si è creata? Tappato in auto, tappato nel traffico e ho pure il naso tappato. Naso chiuso specie in caso di raffreddore? Puoi provare Rinocaliptol spray decongestionante nasale. Rinocaliptol con sostanze balsamiche facilita la respirazione per 6-8 ore. Rinocaliptol è un prodotto SIT. In farmacia è un medicinale a base di ossimetadolina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Assumere solo per brevi periodi non superando le dosi consigliate. Non usare al di sotto dei 12 anni. Salve, dovrei assicurare la mia auto. Vorrei sapere se... Ottimo, e posso avere una quota... Perfetto, grazie. Con Allianz le risposte arrivano veloci come un SMS. Manda un messaggio con targa dell'auto e data di nascita del proprietario al 393-800-3000 e riceverai la tua quotazione RC Auto in pochi secondi. Anche su Allianz.it. Costo SMS in base al proprio piano tariffario senza spese aggiuntive. I dati forniti verranno utilizzati solo per inviare la quotazione. Informativa privacy su Allianz.it. Alle Fiere di Parma dal 2 al 10 marzo torna Mercante in Fiera Primavera, mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. www.mercanteinfiera.it. La crisi si vince con un prodotto forte e innovativo, sostenuto da persone coinvolte e preparate. Sentiamo Francesca Piredda, HR Manager di Kia Motors Italy. Kia Motors Italy è una giovane realtà, capace fin da subito di imporsi con successo sul mercato italiano grazie all'entusiasmo di persone motivate e unite verso un obiettivo comune. Siamo cresciuti insieme ad ADP, nostro partner strategico per la gestione del personale. Segui l'esempio di Kia. Segui ADP 800-180-959 o adp-italia.com. Sillogel Mega Fermenti, per il ripristino della flora intestinale, da Natura, in farmacia. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta... Essere e benessere, di Nicoletta Carbone. Mani fredde, cuore caldo, buongiorno, si dice così, ma c'è qualcosa di vero, in altre parole, ogni volta che stringiamo una mano fredda, siamo autorizzati a pensare di avere davanti un innamorato? Voi che dite? Ma intanto, se avete le mani inspiegabilmente fredde, scaldatele facendo il nostro numero verde 800 24 00 24. Buongiorno al dottor Carlo Gargiulo, che è qui in studio con me. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Mani fredde, cuore caldo, ma questo non posso dir nulla al riguardo, però se c'è freddo, se c'è un formicolio, se c'è un disturbo, un fastidio, due possono essere le cause fondamentali, o è la circolazione o è il sistema nervoso periferico, i nervi in periferia, e allora vediamo un po'. Vediamo un po', 800 24 00 24, non è solo questione di temperatura, come accennava il dottor Gargiulo, a volte abbiamo proprio la sensazione di non sentire un dito, una mano, un piede, una gamba, come se quella parte del nostro corpo fosse addormentata e quindi insensibile. Basta muoverla, massaggiarla un po' e come d'incanto si ripiglia. Sì, beh, effettivamente se è un fatto di circolazione, come dicevamo, facilmente si riprende un po' il calore e la temperatura. Subito un consiglio per i nostri ascoltatori: non appoggiate cose calde, non avvicinate le mani al termosifone, quello potrebbe farvi peggio, perché lì per lì la sensazione di calore è piacevole, ma dopo potrebbe peggiorare. Meglio, vero? Meglio mettere, come si dice, le mani avanti. Intanto vogliamo anche salutare il professor Roberto Sterzi, neurologo a Milano, che è qui in studio con me. Buongiorno professore. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Caldo, freddo, formicoli, intorpidimenti, punture di spilli, sensazioni strane, un po' difficile forse da descrivere con precisione. Oggi proveremo a farlo per capire sino a che punto e in che misura rientrano nella normalità. Professore, stiamo parlando di sintomi apparentemente banali ma fastidiosi, specie se si ripresentano con una certa frequenza. Certo, ma anche al fine di caratterizzare quello di cui ci stiamo occupando, vale la pena di precisare dove si verificano questi disturbi, alla mano, al piede, oppure in altre parti del corpo, se sono da una parte sola o da tutte e due, se questo disturbo ha delle caratteristiche particolari, cioè sembra un formicolio, oppure è una sensazione fastidiosa, dolorosa, di bruciore, oppure ancora se scompare la sensibilità, si ha l'impressione di non sentire, di non avvertire più il tatto, quello che si chiama anestesia, come quando si va dal dentista e ci si fa anestetizzare per togliere un dente, e poi rimane un'area insensibile. Sì, la guancia un po' morta, sì, fastidiosissima. Poi uno non riesce a parlare. Esatto, quello. E questo può succedere anche a una mano, un piede, ha un significato. E oppure, se dobbiamo capire se questo insorge improvvisamente, e può essere un segnale molto particolare, oppure qualcosa che si trascina nel tempo, è insorto gradualmente. Se questo è importante al punto di limitare le attività, oppure si convive, no, come si dice, certo. Ci si convive facilmente, oppure se si presenta durante il riposo, uno va a dormire e poi si sveglia con questi disturbi, oppure anche durante l'attività, se passa da solo basta aspettare, oppure è necessario, come diceva prima, è necessario massaggiare, cambiare posizione o qualcos'altro. Dottor Gargiulo, ci lamentiamo con il nostro medico di queste piccole sensazioni che sono spesso assoluta. Sì? Sì, a lei arriva, dottore, mi formicola la mano. Ma molto spesso sono le donne a lamentarsi di questa questi disturbi. Questa non ci credo tanto. Noi donne non ci lamentiamo mai. Lo so, però effettivamente quando vengono nel mio studio si lamentano dei disturbi anche del marito, ma diciamo, mettiamola così. Dai, questo mi piace, però, di più. Però in realtà è un disturbo molto femminile, quello delle mani fredde, della parestesia, della metà delle dita bianche, quindi è frequente. E noi abbiamo un Giancarlo che ci chiama da Roma, chissà se ha anche lui una gelida manina. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, una gelida, sì, manona dalla voce, ho direi. Ho una mano molto gelida, sì, oggi. E quindi e ho sentito questa trasmissione e volevo sapere appunto se c'era un legame tra la pressione e, diciamo, le mani e i piedi freddi, ecco. Grazie per perché questa... Perché io ho la minima alta, quindi ho, diciamo, un problema, diciamo, di pressione, quindi volevo sapere se appunto erano legate le due cose. Pressione e temperatura che avvertiamo, pressione e circolazione, questo è, no, lo spunto che ha spinto Giancarlo a chiamarci. Ma in qualche modo una relazione c'è. Mi si cosa sta succede? Addormentando un braccio, io non lo so come mai, dove l'ho braccio tenuto. Si è addormentato e raffreddato. Comunque siamo in buone mani. La sensazione di freddo deriva da due fattori. Un esterno, se io esco e fa tanto freddo, certo, i recettori sulla mia cute mi informano che fa freddo. Ma c'è un altro aspetto, e questo interessa l'ascoltatore, è che il mio sistema nervoso autonomico reagisce al freddo ottimizzando la distribuzione del calore. Il calore viene distribuito attraverso il sangue, quindi quando fa freddo il sangue viene concentrato nelle parti vitali, cioè nei visceri, nel cervello, e si riduce alla periferia, cioè nelle mani e i piedi. Come? Attraverso una contrattura della muscolatura, delle arterie. E questo ha a che fare anche con la pressione, che deriva proprio da una vasocostrizione. Non necessariamente chi ha la pressione alta è più sensibile al freddo. Certo è che ci sono delle persone che hanno maggiore tendenza a contrarre questi piccoli muscoletti. E questo succede anche nell'emozione. Se il sudare freddo, le mani fredde quando si è emozionati, derivano proprio da questo. Anche se non c'è freddo, quel meccanismo che ho appena descritto si attiva nell'emozione. Beh, a riprova di questo i nostri ipertesi lo sanno molto bene. In estate spesso riducono il loro farmaco perché questa vasodilatazione, come diceva giustamente, tende ad abbassare un po' la pressione. In inverno lo aumentiamo perché il freddo tende ad aumentare la pressione. Quindi il nostro ascoltatore ha ragione. Non prenda le sue mani fredde come un misuratore di pressione, però, mi raccomando, la pressione la misura con l'apparecchio giusto. Naturalmente, però se avvertiamo nell'ultimo periodo magari la mano, il piede più freddi del solito, questo potrebbe essere un invito a fare che? A misurarci la pressione. Perfetto. Che dite? O anche, non so, ci sono alcune situazioni in cui le mani diventano particolarmente bianche e poi addirittura bluastre perché la circolazione non si riattiva. Questo può essere una particolare condizione che merita un'osservazione da parte del medico. Quindi anche al nostro amico Paolo, che ci scrive da Bassano: ho sempre i piedi freddi, ho 52 anni, sempre avuti da sempre, e quindi quando un problema, no, c'è da tanti tanti anni, certo, vuol dire che siamo proprio, no, fatti quasi così, fisiologico, è quasi via. Fisiologico, tra l'altro lui ci informa che ha una pressione 87-115, un babà. Beh, direi perfetto. Perfetto, quindi a Paolo cosa diciamo? Sereno. Sì. Tranquillo, piedi freddi, cuore caldo, magari innamorato. Allora, piedi freddi, una cosa importante: quando state a letto e avete i piedi freddi, non fate l'errore di tirare le gambe verso il busto, cioè di ripiegarle, perché quello è un errore che rallenta ancora di più la circolazione. E un po' mettete, di coraggio, mettetele giù in fondo. Non metteteli sotto il sedere o sotto le gambe della di vostra moglie. Beh, oddio, perché no? Perché così ci gelate, perché è un classico. Mario, buongiorno, ci chiama da Brescia, 800 24 00 24. Buongiorno a tutti, bravissimi per la trasmissione ovviamente. Grazie. Allora, io ho 50 anni, il problema è che ho spesso in inverno le dita mi si sbiancano, proprio non arriva più la circolazione, mi capita soprattutto quando guido, ma anche le dita dei piedi, mi sono venuti anche i geloni da un paio d'anni, sparisce tutto in primavera e mi ritorna con questa stagione, ma soprattutto ecco le dita delle mani sbiancano e prima di far ritornare la circolazione ne voglio, ecco, chiedere qualche chiarimento. La pressione è a posto, io sono un runner, quindi faccio anche parecchie attività sportive. Certo, abbiamo molti runner tra gli ascoltatori di Essere Benessere di Radio 24, poi abbiamo anche Cruciani, che è un runner vero, ma runner e dita non c'entrano. Ma per tranquillizzare i due ascoltatori che hanno situazioni abbastanza analoghe, ci sono delle persone che più di altre sono predisposte a una maggiore sensibilità a quel fenomeno che avevo descritto prima, cioè che con il freddo c'è una contrazione dei muscoli delle arterie periferiche. Questa è una condizione, come si diceva, fisiologica. Diverso è se una persona che non ha mai sofferto di questi problemi incomincia ad averle improvvisamente e oltre ad avere le dita bianche vede che queste dopo un po' di tempo incominciano a diventare blu. Questo ha un nome particolare, un eponimo che è il morbo di Raynaud, e a questo punto va ovviamente seguito il paziente, visto da un medico, e può darsi che in queste condizioni venga addirittura consigliato un esame quale l'esame Doppler. Certo, perché la valutazione giustamente dei vasi sanguigni, nel caso specifico delle arterie, delle vene, serve a levare il dubbio che possa esserci qualcosa di più importante. Non è il caso dell'ascoltatore perché ce l'ha da tempo, l'ha sempre avuto, però un controllo in più può sempre far comodo e sempre utile. Professore, ci sono delle situazioni in cui la sensibilità è irritante, pungente, succede quando avvertiamo il formicolio, la punturina di spilli, è un classico. Certo, la sensibilità, come l'abbiamo descritta, dipende da recettori che sono distribuiti in tutto il nostro corpo. Sì. E noi dobbiamo immaginare il nostro organismo che deve difendersi in un ambiente esterno e interno che continuamente cambia e deve mantenere un equilibrio. C'è un concetto fisiologico che è quello dell'omeostasi. Quindi le sensazioni che noi riceviamo ci informano di quello che sta succedendo all'esterno o all'interno di noi, e quindi ci sono diversi tipi di sensibilità che sono attivati da cambiamenti della pressione, da cambiamenti della temperatura esterna, cioè quindi delle forme di energie esterne, ma sono anche alterazioni chimiche, per esempio quando cambia il sapore o cambiano gli odori. Tutto questo siamo un straordinario laboratorio, professor Sterzi. Sì, vero? Siamo come delle navicelle spaziali che devono costantemente mantenersi in uno spazio che non sempre è favorevole. Professore, ma può capitare che ad esempio uno abbia queste sensazioni senza una causa, che quindi siano una patologia quasi? Ci sono delle situazioni che possono essere espressione di un'alterazione dei nervi. Allora, questo è uno spettro che parte anche da condizioni del tutto tollerabili, cioè nel senso che in alcune situazioni ci possono essere delle cattive regolazioni che ci danno un formicolio, ma poi resta un evento molto isolato. Diverso è se questi formicolii, queste sensazioni che non hanno una corrispondenza, cioè io sento come delle formiche che marciano sul mio braccio, ma non ci sono le formiche, quindi certo, è una situazione illusoria. Se le vedo ho un altro problema. Certo. Vero? Se le vede lei e non le vedono gli altri, ha un grosso problema. Il problema si fa serio. 800 24 00 24, parliamo di sensibilità, a volte è piacevole, a volte è dolorosa, a volte sentire fa male, la nostra pelle è dolente e il dolore, lo sappiamo, ha tante facce, può essere simile ad una scossa o a un fuoco, può essere localizzato, invece correre, no, diramarsi, anche questa è una sensibilità che noi... Ci sono per esempio delle condizioni particolari che hanno che vengono descritte nel linguaggio popolare in modo molto icastico, molto vivace, come fuoco, no? Il fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio altro non è che l'herpes zoster. Sì. Di risvegliarsi. Ecco, cioè sostanzialmente il risveglio di un'antica varicella. I virus della varicella riposano nei gangli, che sono il punto di raccolta della sensibilità, e per ragioni particolari, soprattutto legate a un abbassamento della risposta immunitaria, questo si verifica nell'età avanzata, sì, oppure in seguito a malattie che deprimono il sistema immunitario, si risvegliano e però non danno una varicella in tutto il corpo, ma si distribuiscono lungo, certo, una radice nervosa. La radice nervosa ha un andamento a cintura, in greco appunto si rimanda alla cintura, e il dolore è talmente forte che sembra un fuoco che brucia, è come se ci fosse un fuoco che scorre lungo questa cintura. Dottor Gargiulo, sicuramente è un dolore che avvertiamo, sì, e che ci porta a consultare il medico? È facile arrivare alla diagnosi? Beh, non sempre perché facile, perché io a volte... storie di fuochi di Sant'Antonio che sono stati palleggiati. Diamo un'indicazione concreta, pratica ai nostri ascoltatori. Nella forma più classica, il fuoco di Sant'Antonio si manifesta con queste lesioni cutanee, con queste bollicine che si raccolgono a grappolo, quindi sono lesioni caratteristiche e, come diceva giustamente il professore, seguono il decorso del nervo, ad esempio nell'herpes del torace seguono il decorso delle costole, quindi le troviamo una dietro, una di lato e una davanti magari, e queste sono molto caratteristiche, arrossate, pruriginose e dolenti. Dolenti. E un mix di piacere e di dolore si prova ad esempio con un gioco che si faceva anche quando si era bambini, una stimolazione, il solletico. Ridiamo molto, ma soffriamo, tanto che si dice soffro il solletico. Una sorta di piacevole tortura. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Emanuele Iannini, docente di sessuologia medica all'Università degli Studi dell'Aquila. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche a me fa molto piacere sentirla. E dicevo del solletico, che è un mix di piacere e di dolore che si prova, infatti ridiamo ma allo stesso tempo soffriamo. Sì, il solletico ha due facce e una parte importante anche del gioco erotico, per cui entra in qualche modo nel piacere di stare insieme, e come giustamente diceva c'è questa componente di piacere e di sofferenza in qualche modo. Ma c'è anche un altro aspetto che è caratteristico del solletico, che è l'altra faccia del solletico, può essere invece un meccanismo di difesa, cioè può in qualche maniera rappresentare una scarsa capacità di essere intimi con il proprio corpo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle persone che sostituiscono alle sensazioni di piacere quelle di solletico. E questo lo vediamo con quasi un gioco che facciamo con i nostri pazienti, si chiama la mappa del corpo, in cui diamo dei pennarelli, tre pennarelli di colori diversi, e li chiediamo di usare, di colorare le parti del loro corpo su una sagoma, su un disegnino, utilizzando appunto questa logica di colori per il dolore, le zone di dolore, le zone di piacere, le zone di solletico. E ci rendiamo conto che in determinate situazioni, appunto situazioni patologiche, in determinate situazioni ci sono eccessi di zone di solletico che vanno in qualche maniera a coprire le zone che sono invece destinate al piacere, le famose zone erogene. E una terapia efficace per una disfunzione sessuale è generalmente capace di allargare la zona delle zone di piacere e di diminuire la zona del, ovviamente, del dolore, ma soprattutto del solletico. Come la tocchi e le vengono i brividi, è pazzesca. Io una donna così mica l'ho mai incontrata. E poi guarda, le fa il solletico sulla spalla e quella attacca ad urlare e ti dice delle cose mentre siamo a letto. E così il nostro Gianni va in giro dicendo che io sono una donna sensibile. Non sensibile, molto sensibile. So tutto sulla sua spalla. Ha sentito che roba? No. Neanche un po' di solletico? Professore, quindi torniamo alla mappa del solletico. Ciascuno di noi può provare a disegnare la propria mappa e trarre, sulla base delle indicazioni che lei ci ha suggerito, trarre delle indicazioni? Non solo, ma una cosa che si fa in terapia è quella di chiedere al partner e alla partner di disegnare la mappa dell'altro o dell'altra. E questo è un altro aspetto molto interessante, no? Come vedere come viene vissuto il nostro corpo negli occhi del proprio partner. E anche questo ci dà tante informazioni su questa capacità di, come dicevo prima, di essere intimi con se stessi. Appunto, è allarmante, appunto, se una zona che dovrebbe essere piacevole viene descritta come fonte di solletico, ovviamente. Mentre invece, se questo avviene, come sentivo prima, sulla spalla, invece appunto rientra in quella dinamica di gioco erotico a cui facevamo prima riferimento. Quindi, professore, l'indicazione per i nostri ascoltatori, ma lo do anche naturalmente anche per noi, anche a Laura Vanossi che è in redazione, che se la sta ridendo, a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, è provare a visualizzare nel proprio corpo le mappe e poi fare questo sorta di gioco di comunicazione anche con il partner, e quindi chiedere. Sì, può essere divertente. Può essere divertente. Dottor Gargiulo, lo suggerisca anche a lei quando mi viene venga da chiedere, in ambulatorio. Ma se uno soffre il solletico, può cambiare partner? Andiamo potrebbe essere un'ottima scusa. Ok, grazie. Grazie, grazie professor Iannini. Ciao. Buona giornata. Noi andiamo. Grazie a tutti, a voi. A allora, esercitatevi con le mappe, ma restate con noi. 800 24 0024. Andiamo a sentire i mercati e il meteo, e poi di nuovo qui, molto, molto, molto sensibili. Montepaschi risponde. Alla luce di tutte le notizie che sono uscite negli ultimi giorni, come risparmiatore e vostro cliente, vi chiedo, la banca è solida? Sono un vostro cliente che ha sottoscritto obbligazione Paschi. Vorrei sapere se corro rischi di perdere il mio capitale. La vostra gamma di offerta è adeguata e conveniente? Vai su radio24.it, entra in Montepaschi risponde e mandaci la tua domanda. Prigioniero della stitichezza? Dalla natura un valido aiuto per l'intestino stressato. Le 12 erbe, tavolette naturali di erbe che favoriscono la digestione e regolarizzano la funzione intestinale. Le 12 erbe e ritrovi il benessere in farmacia ed erboristeria. Il business cambia. La tua infrastruttura è pronta? IBM ti invita a conoscere le novità dello smarter computing a un evento esclusivo in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Insieme a Luca De Biase, giornalista e noto blogger esperto di IT, scopriremo l'evoluzione tecnologica della famiglia IBM Power Systems e le più recenti soluzioni per cloud, data, security. Il 28 febbraio a Milano e in seguito anche a Padova, Catania e Firenze. Entra nel futuro. Adesso. Iscriviti su ibm.com/tour/IT. Costruire con il legno. Legno Edilizia 2013. Fiera di Verona 14-17 marzo. Opportunità per superare la crisi. Aggiornamento per tecnici e professionisti. Legno Edilizia 14-17 marzo. veronafiere.it. Se sei un'azienda e cerca agenti, rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Se cerchi agenti di commercio, vai su agenti.it. www.agenti.it. Oh yeah! Borse in diretta. Il Tesoro ha venduto tutti i 4 miliardi di offerta massima sul nuovo BTP decennale. Il tasso pagato agli investitori è salito al 4,83% dal 4,17 di gennaio, raggiungendo i massimi da ottobre. Il rapporto fra domanda degli investitori e offerta è stato a 1,65. Collocati anche tutti i 2 miliardi e mezzo di BTP quinquennali, il tasso pagato in questo caso agli investitori è salito al 3,59% dal 2,94% di gennaio. Come nelle attese dunque l'esito di quest'anno, di questa asta dopo il risultato elettorale e le rinnovate tensioni sui mercati degli ultimi due giorni, peraltro dopo i forti ribassi di ieri, oggi il mercato azionario europeo prova a recuperare ma il rimbalzo è totalmente modesto, più 0,2% sul FTSE MIB a Milano, Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,10%, Londra più 0,20%, Madrid più 0,16%. Sono in grande difficoltà anche oggi i titoli del settore bancario, che risentono dello spread a livelli ancora molto alti, sopra i 340 punti base. Mediobanca, peggior titolo della seduta, è finito anche in asta di volatilità, perde il 4,5%, Monte dei Paschi meno 3,24%, il ribasso di un punto e mezzo, anche Azimut, l'Ottomatica meno 1,15% per Parmalat. In rialzo Toz guadagna un punto e mezzo con Tenaris, Prismian più 1,41%, Autogrill più 1,41%, rapporto euro-dollaro a 1,30,90, è tutto, i mercati tornano nel GR delle 12. Mi chiamo Falco Verna. Quando ho aperto la mia agenzia di Italiana Conciliazioni a Roma Laurentina, la gente ha avuto subito fiducia in me, perché il massimo in 120 giorni gestiamo le pratiche senza spese legali anticipate e visto il periodo non è poco. Diventa imprenditore e apri anche tu in franchising nella tua zona un'agenzia di Italiana Conciliazioni. Dalla mala sanità al recupero crediti al contenzioso societario. Per saperne di più, italianaconciliazioni.it o chiama l'800 14 49 72. 01 Distribution presenta. Dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, il candidato all'Oscar John Malkovich. Un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare. Educazione siberiana. Dal 28 febbraio al cinema. Foppa Pedretti presenta Gulliver, lo stand di biancheria pieghevole. Lo apri come ti serve e ha una disponibilità massima pari a 27 metri di filo per stendere. È grande, grande, grande! Ma come grande? Hai presente la mia chitarra? Foppa Pedretti, l'albero delle idee. servizi per il marketing, carte fedeltà, concorsi, loyalty programs, regalistica, gadget e i migliori marchi per i premi del tuo catalogo. Dove li trovi? A Promotion Expo, la fiera della comunicazione e del marketing, dal 13 al 15 marzo in Fiera Milano City. È l'evento ideale se cerchi nuove soluzioni per fidelizzare i tuoi clienti e da quest'anno anche oggettistica e servizi per i musei. Ingresso gratuito riservato alle aziende. Ti aspettiamo. www.promotionexpo.it. In Valle d'Aosta a Cervinia, impianti sciistici aperti fino a maggio. E che offerte! lovevalledaosta.it. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Oggi ci attende un'altra giornata nuvolosa e piuttosto fredda, ma con poche piogge concentrate più che altro al nord-est ed estremo sud. Poi fra domani e venerdì tempo discreto e temperature in rialzo grazie al temporaneo ritorno dell'alta pressione. Ma tornando alla giornata odierna vedremo quindi nuvole su gran parte dell'Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al nord-ovest e regioni centrali tirreniche. Nel corso del giorno deboli piogge bagneranno Veneto, Emilia, Romagna, Marche, Puglia, Calabria e Sicilia, con delle nevicate sui rilievi al di sopra di 700-900 metri. E per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto. State ascoltando un programma offerto da Natura, nutrizione scientifica. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme, misuriamo la nostra sensibilità intesa come risposta agli stimoli. Abbiamo parlato di caldo, di freddo, luce, rumore, sono tutti segnali che attivano a risposte, alcune molto piacevoli. Pensate a quando siamo accarezzati, stiamo ancora pensando alla mappa del professor Iannini, che è piaciuta molto anche voi perché mi state scrivendo, quindi mappatevi. Pensiamo a quando accarezziamo una persona a cui vogliamo bene, a quando siamo accarezzati, ma ci sono anche delle risposte che sono un pochino sgradevoli. Un esempio classico, il gessetto sulla lavagna che fa venire la pelle d'oca, professor Sterzi. Quindi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Sì, perché un aspetto che caratterizza la sensibilità è quello della soglia. C'è una soglia verso il basso, cioè io posso carezzare una persona ma talmente piano che questa persona non avverte la carezza. Ma c'è una soglia verso l'alto, oltre la quale la sensazione cambia, e come dire, la stessa zona della guancia, la stessa mano che ha prima accarezzato arriva violentemente e tocca con violenza questa zona, si avverte come una sberla e non come una carezza. Certo. E la stessa cosa per il gessetto, il gesso che striscia sulla lavagna può essere, cioè il gesso ben spezzato, magari senza punte, smussato, che scrive sulla lavagna non è fastidioso, problema, ma se c'è la punta, questa porta delle vibrazioni tali che superano la soglia e diventano fastidiose. Ma ci sono anche reazioni che si attivano autonomamente. Qui apriamo un altro grande capitolo che ci permette di parlare di una serie di sintomi e manifestazioni che attivano proprio la nostra curiosità, preoccupazione direi, verso cui siamo per l'appunto sensibili, e parlo dei movimenti involontari, la palpebra che balla, il naso che ci arriccia, il tremorino. 800 24 00 24. Federico da Vicenza e Carlo da Modena. Federico, buongiorno a lei. Buongiorno, io voglio porre una domanda. L'ha tirata fuori, sì. Mia moglie che durante la notte ha male le mani, non ha sensibilità, formicolio, e volevo sapere se questo era da attribuire al tunnel carpale. Potrebbe essere il tunnel carpale. E tunnel l'urologo carpale di nervi se ne intende, giusto? No, il tunnel carpale ha come caratteristica questo, cioè una sindrome, che cioè un disturbo che deriva dall'ispessimento di una guaina, una specie, il tunnel appunto, un tubino, cioè una sorta di rivestimento al polso sotto il quale passa un nervo. Questo nervo è il nervo mediano. Il nervo mediano va ad innervare le prime tre dita della mano. durante la notte cosa succede? C'è una sorta di imbibimento, cioè il rigonfiamento un po' di questa guaina, e quindi il nervo viene un po' schiacciato. Quindi c'è il dolore, soprattutto le prime tre dita della mano, formicolii. E questo spiega anche un po' perché è un disturbo che si manifesta specialmente di notte, giusto? Sì. E tipicamente di notte, ma qualunque andare, cioè, resiste e persiste anche di giorno. Dottor Gargiulo. Disturbo che è anche molto femminile. Beh, lo sapevo, lui ci vuole presentare, amiche. No. Ecco. Beh, vabbè, bisogna ci dirlo. Ci vuole presentare come quelle che vanno sempre dal medico e si lagnano, perché invece... No, non è che vanno sempre dal medico e si lagnano, però bisogna dirlo che effettivamente la componente ormonale ha una certa importanza, certo, e quindi può determinare questi fastidi. Tant'è vero che è frequente anche in gravidanza la comparsa del tunnel carpale, perché ovviamente il componente ormonale è completamente sovvertito. Si possono avere questi disturbi che il più delle volte regrediscono al termine della gravidanza. Carlo da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ci racconti. Io avevo una domanda da farvi. Praticamente mi sono tanti anni che mi succede di notte che mi si addormenta completamente un braccio. Io mi sveglio preso dagli incubi, poi non capisco, cioè non ho mai detto con nessuno questa cosa qua, però... cioè, mi spaventatissimo, mi sveglio tutto sudato, spaventato, e il braccio non è, dalla spalla in giù non lo sento. Sente Carlo, lei non l'ha mai detto a nessuno, quindi siamo, no, siamo quasi commossi che lei ci faccia questa confidenza. Dal fatto che sono vari anni siamo che lei intimi, ha questo disturbo, però fa pensare che non abbia lasciato poi conseguenze se non queste esperienze molto fastidiose durante la notte. Potrebbe essere un caso di una particolare sensibilità che alcune persone hanno alla compressione. Cioè i nervi sopportano una certa compressione fino a un certo punto, dopodiché incominciano a dar segno che qualcosa non va con i formicoli o addirittura non funzionando bene, perché i nervi sono elementi vivi, non sono fili metallici. E la sensibilità alla compressione varia da persona a persona. Converrebbe fare, se questo disturbo è importante, fare una valutazione oppure anche un'elettromiografia per capire se c'è qualcosa di più importante. Dottor Gargiulo, vogliamo aprire anche una parentesi su questo capitolo dei... è giusto chiamarli movimenti involontari, professor Sterzi? Sì. Quasi, non proprio. No, cioè, la definizione è proprio i movimenti involontari, però vorrei fare una distinzione. Sì. Ci sono movimenti involontari, per esempio come il tremore, che possono essere espressioni di malattia, però molto più comunemente, molto più diffusamente, ci sono dei piccoli movimenti non dipendenti dalla nostra volontà, e quindi in questo senso è giusta definizione involontari, che si localizzano per esempio alle palpebre oppure sono costituiti da un lievissimo tremore alle mani. Quando non ci si deve preoccupare? Quando il tremore è legato a particolari situazioni, per esempio quando ho freddo, mi viene, quando certo, ho la febbre, oppure quando sono nervoso e che posso... Vorrei sottoporle un tremore che abbastanza, che insomma, su cui ci preoccupiamo o che cattura la nostra attenzione, che è quello del tremore della tazzina, dottor Gargiulo. Prendiamo la tazzina di caffè e poi vediamo che in qualche modo un po' di caffè, insomma, abbiamo quel leggero tremore che a volte fa cadere la goccetta. Sì, no? Però come diceva giustamente il professore, se è una cosa di una volta, magari in una situazione di particolare di tensione, lì sarebbe meglio evitarlo il caffè. Però la tazzina che trema leggermente mentre la portiamo può anche non essere considerato come un dato importante. Non dimentichiamo poi che i tremori importantissimi, tipo quelli del Carmelo Parkinson, Lauricella, sono successivi. Ve lo devo raccontare, perché ormai che fa assistenza a essere benessere mese. Allora lui tira fuori, fa dei cartelli e anticipa quasi le risposte dei medici, perché lui aveva già scritto, tanto che lei parlava, troppi caffè. Quindi Carmelo, Lauricella ci dice: attenzione, se avete la tazzina che balla un po', camomilla invece del caffè. Meno, ma mi sta dicendo questa volta non con un messaggio, ma con un gesto, che è tempo di dare la linea alle informazioni sul traffico. Strade in diretta. Prestate attenzione sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, c'è un incidente tra gli svincoli di Lauria in direzione Salerno. Sulla A14 Adriatica invece rallentamenti per lavori tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E anticipiamo alcuni cantieri della notte: alle 22 sarà chiusa la A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Sette Camini e il Grande Raccordo Anulare in direzione di Roma. Alla stessa ora chiusa anche la A3 Napoli-Salerno fra Torre del Greco e Torre Annunziata Sud in direzione Salerno. È tutto, ci risentiamo tra un'ora. Essere e benessere. E abbiamo Silvio che ci chiama da Bologna. Buongiorno Silvio, benvenuto. Buongiorno. Ci faccia anche lei una confidenza, una cosa che non ha mai raccontato a nessuno. No, in realtà non l'ho mai raccontata, ma si vede quando mi capita, perché ogni tanto, non so per quale motivo, mi trema una o l'altra palpebra oppure mi si arriccia una narice a caso, o una o l'altra, e questo fenomeno va avanti qualche giorno, poi sparisce. E quando comincia dura anche diverse ore, e non ho mai capito perché. E non è legato, non è emozionato, stress, in un periodo di particolare stress? Lei non ha provato a fare delle ipotesi? Mi capita quando, non so, ho davanti una persona che mi piace o non mi piace, non mi piace per nulla, ecco. No, da questo punto di vista. Allora, no. Slegato, ma professor Sterzi? Ma dunque, questi movimenti sono particolari, si chiamano miochimie e dipendono da una particolare sensibilità dei muscoli, delle palpebre o dell'ala del naso, e dipendono, potrebbero, ecco, in alcune persone si verificano, questo potrebbe essere una conseguenza del troppo caffè, come la tazzina che balla. Se uno non usa caffè potrebbe avere magari ingerito particolari sostanze o essere in una situazione di particolare tensione. In genere hanno un significato benigno, non occorre nemmeno dare particolari farmaci per tenerle sotto controllo anche in quei giorni in cui capitano. Dottor Gargiulo? Sì, effettivamente anche questa è una cosa che capita abbastanza spesso, soprattutto magari nei momenti più di tensione emotiva, come diceva giustamente il professore. Caffè o non caffè, se si è in una situazione un po' critica, spesso la palpebra balla. Si vede la palpebra che balla, ecco, si succede. Gli balla un po' l'occhio. A proposito di sensibilità, siamo molto sensibili sui danni di smog e polveri sottili. Secondo i sondaggi, gli italiani li ritengono la principale minaccia per la loro salute. Non aspettiamo però che questa situazione, non deleghiamo sempre questa situazione agli altri, cerchiamo di fare anche noi qualcosa. Qualcosa possiamo farlo. In linea con noi abbiamo Margherita Fronte, autrice, insieme a Pier Mannuccio Mannuccio, di un libro che io vi invito a leggere, che si intitola Aria da morire. Un libro molto interessante, molto chiaro, racconta la situazione dell'aria, ma dà anche, per questo io dicevo facciamo qualcosa, dei consigli pratici. Tutti noi possiamo fare qualcosa. Margherita, ciao, benvenuta, grazie per essere con noi. Ciao, grazie a voi. Che aria tira, Margherita? Ma un'aria non troppo buona, sicuramente, almeno nelle città. Abbiamo visto dall'inizio dell'anno gli allarmi smog sono già numerosi. Possiamo anche fare una lista degli inquinanti che ci preoccupano di più e che sono sostanzialmente gli ossidi di azoto, che sono emessi soprattutto dai diesel, l'ozono, che però in realtà si forma soprattutto in estate, e soprattutto però le polveri sottili, che sono una categoria molto eterogenea, che certo, comprende quindi moltissimi inquinanti, fra cui il black carbon, che sono delle piccolissime particelle di carbone che sono emesse anch'esse dai diesel e che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono responsabili della gran parte degli effetti nocivi di tutte le polveri. Ora, va detto che in Italia non siamo messi molto bene, cioè sì, in pianura padana solo le polveri sottili ci trovano in media 2-3 anni di vita e la media europea è di 8 mesi e mezzo, insomma. Quindi verrebbe Margherita da dire non metto il naso fuori, se non fosse che anche nelle nostre case non tiro un'aria migliore, questo lo sappiamo bene, e anche in questo caso l'elenco è lungo, ma io vorrei portare l'attenzione su un nemico nascosto nelle nostre case verso cui siamo poco sensibili, a proposito di sensibilità, nel senso che se ne parla poco, invece se ne dovrebbe parlare di più, è il radon, Margherita. Sì, il radon infatti se ne parla poco, però è un tema che sta diventando attuale, fra l'altro ne parlerò anche io questa domenica sul Corriere della Sera. Sì. È un gas radioattivo ed è uno degli inquinanti indoor, insomma è un cancerogeno, un po' come il fumo di sigaretta, sì. Ecco. Le concentrazioni di radon in Italia fra l'altro sono abbastanza alte rispetto alla media mondiale, peraltro in questo caso perlomeno non è colpa nostra, perché dipende dalla natura geologica del nostro territorio. Senti, cosa, Margherita, cosa si può fare? Nel vostro libro date delle indicazioni da seguire, ecco, precise. Sì, sì, possiamo raccoglierle rapidamente? Sì. Certo, allora la prima cosa è misurarlo se si ha un sospetto che sia elevato. Ci sono delle ditte private che lo fanno, ma soprattutto c'è l'Enea di Bologna, che può essere contattata anche attraverso internet, che su richiesta manda un kit proprio per misurare il radon in casa. Poi si possono però anche attuare delle misure per ridurre la concentrazione in generale senza attuare delle bonifiche vere e proprie. Sì. Però per esempio aprire le finestre, cominciando da quelle dei piani bassi e andando via via verso quelle dei piani alti, e poi richiuderle a partire da quelle dei piani alti e scendendo verso i piani bassi, è una misura che può ridurre la concentrazione. E alcuni studi suggeriscono anche che una dieta ricca di frutta e verdura protegga dai danni delle radiazioni del radon. Sì. Certamente però ecco, un consiglio per chi fuma è smettere di fumare, perché si è visto che in chi fuma i rischi del radon sono 20 volte superiori rispetto a chi non fuma. Quindi il fumo ha un effetto moltiplicatore, una sorta di effetto moltiplicatore. Esatto, esatto. Per quanto riguarda le bonifiche, diciamo proprio per i fumatori, in effetti gli esperti consigliano di prevedere degli interventi quando ci si trova a soglie che sono superiori a 200 becquerel al metro cubo, che in Italia sono piuttosto comuni. Questi valori, sì. Però insomma poi vanno valutati anche i costi, a volte bastano misure semplici che magari costano qualche centinaio di euro, nei casi più complessi si invece la spesa è maggiore. Sì, e non è rimborsabile, fra l'altro. Ecco, è un piccolo punto. Dettaglio. Margherita, grazie per essere stata con noi. Aria grazie da morire. Ricordiamo il libro che potete ricevere anche a casa, perché abbiamo pensato di abbinarla al quizzettone di oggi. 800 24 00 24. Una domandina molto semplice. Come si chiama quel tipo di sensibilità particolare che attraverso la quale ci rendiamo conto della posizione dei nostri arti, cioè ci rendiamo conto di dove è il piede o di dove è la gamba. 800 24 00 24, intanto che rispondete potete chiamare il nostro numero verde che è a vostra disposizione. Andiamo a Napoli, c'è Albano. Buongiorno Albano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere, io ho 68 anni, ho una specie di bruciore ma molto forte a volte sotto la pianta dei piedi, ma è molto forte, intenso, e poi si addormentano anche i due alluci. Ecco, questo è attenzione, soffro di insufficienza venosa. Questo è il problema del nostro Albano. Quando la pelle, dottor Gargiulo, brucia, abbiamo già parlato del fuoco di Sant'Antonio, sì, che però esatto. Non arriva ai piedi. No, non arriva ai piedi, ecco. È abbastanza difficile. Ecco. Però ci sono i burning feet, come dicono gli inglesi, no? I piedi che bruciano. C'è proprio una... Ma anche la lingua che brucia, di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. Quindi in questo caso lui già ci parlava di un'insufficienza venosa che potrebbe in parte spiegare il problema, il sangue non riesce a defluire, a ritornare come deve, quindi si accumula nella parte più bassa, cioè nei piedi, e potrebbe dare questa sensazione dolorosa. Ancora bisogna capire bene se questi piedi ad esempio dal punto di vista della glicemia, come è combinato dal punto di vista della glicemia, perché se ha una glicemia alta, un diabete, potrebbe essere il segnale di una neuropatia diabetica, un elemento molto preoccupante nel diabetico, ma che si può curare riportando i valori della glicemia a livelli normali. È un sintomo quindi da non trascurare, come dicevamo prima insieme al professore, è un sintomo questo dei bruciori, formicoli, da non trascurare quando, come nel caso del nostro ascoltatore, diventa costante, frequente e quindi fastidioso. Intanto noi diamo ancora un po' di tempo ai nostri ascoltatori per rispondere alla domanda che gentilmente il professor Sterzi vuole ripetere, che è: come si chiama quel tipo particolare di sensibilità che ci informa sulla posizione dei nostri arti? È facile, 800 24 00 24, l'abbiamo abbinata a un libro di cui mi state già chiedendo informazioni, che è Aria da morire, dove ci sono tanti consigli che ci rendono più sensibili a tutto quello che noi possiamo fare per salvaguardare e tutelare la nostra salute e anche proteggendo l'ambiente in cui viviamo. Dottor Gargiulo, a chiusura di questa trasmissione, abbiamo ancora qualche minuto, voglio con lei raccogliere le informazioni utili, le pratiche e consigli da mettere in tasca e utilizzare al momento opportuno. Allora, come abbiamo detto, il primo consiglio è quello di non trascurare i sintomi e i disturbi, nel caso specifico parliamo di sensibilità, i disturbi della sensibilità che sono costanti nel tempo. Non li trascurate perché sono un segnale, un campanello d'allarme che il nostro organismo ci manda. Proprio così riusciamo ad entrare in sintonia meglio con il nostro corpo. E poi l'altra cosa importante, abbiamo parlato di fuoco di Sant'Antonio, non sempre quelle bollicine che dicevo compaiono, per cui se avete il dubbio che un dolore improvviso che magari da un paio di giorni vi tormenta o vi tortura possa essere legato al fuoco di Sant'Antonio, pensate se siete stati vicino magari a una persona che ha avuto la varicella. Voi l'avete già avuta, potrebbe essere quello il momento scatenante per far partire il fuoco di Sant'Antonio. Della stessa famiglia, a proposito di fuoco, intanto che dalla regia magari mi passano l'ascoltatore che ha risposto al quiz del professor Sterzi, sempre della stessa famiglia, l'herpes che compare sulle labbra. Esattamente. Ecco, abbiamo iniziato con mani fredde, cuore caldo, se sulle labbra sono fiorite, astenetevi dal bacio. Fabrizio da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Fabrizio, mi dicono che lei ha la risposta. Speriamo. Dai, che facile. La risposta è propriocezione. Bravo. Bravo. Bravissimo. Fare un gioco di parole, proprio così. È proprio così. Grazie a Fabrizio da Lodi, al professor Sterzi, al dottor Gargiulo. A domani, buona giornata. Radio 24. La passione si sente. Natura, nutrizione scientifica. Vi ha presentato Essere e benessere. Sillogel Mega Fermenti per il ripristino della flora intestinale. Da Natura, in farmacia. Infissi Coserplast, miglior prodotto italiano a costo zero, 55% di detrazione fiscale, sconto 15 dei rivenditori, risparmio sulle bollette. In pochi anni gli infissi ti costano zero. 800-959-543. Coserplast, affidabilità per la vita. Renault apre la strada agli eco-incentivi. Solo a febbraio, Renault Twingo a 6.950 euro con 3 anni di assicurazione furto e incendio a 20 euro l'anno. TAN 499, TAEG 933. Info in concessionario su Firenne.it. Renault, drive the change. SAIE 3, l'unico salone dedicato ai serramenti e alle finiture di interni ed esterni per gli operatori professionali. SAIE 3, dove domande e offerta, innovazione e cultura si incontrano. Bologna Fiere, 28 febbraio 2 marzo. Scarica il tuo biglietto su saie3.com. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi. Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Ma un'alternativa c'è. Dalla ricerca di Excellence Dental Network, una cura non invasiva con il microscopio e il laser. Prenota una visita nella clinica odontoiatrica più vicina a te all'800 090 106 o su parodontite.it. Salva i tuoi denti, evita gli impianti. 800 090 106. Vuoi rafforzare il tuo business? Marchio OK si prende cura del tuo marchio dall'ideazione alla tutela legale, grazie all'apporto di professionisti nel campo grafico, pubblicitario e legale. Per rafforzare il tuo business, Marchio OK è la risposta. Per informazioni visita il sito marchiook.com o contattaci al numero 06 95 21 85 77. 06 95 21 85 77. Miotronic di Foppa Pedretti, il passeggino elettrico con la spinta assistita che rende la vita più comoda e non solo in salita. Miotronic, il passeggino elettrico di Foppa Pedretti, perché le belle idee non ci vengono solo di legno. www.foppapedretti.it. È mezzogiorno. GR24, il sole 24 ore. Il Papa: abbiamo vissuto momenti difficili, il Signore sembrava dormire, non torno a vita privata, non abbandono la croce. Rendimenti dei BTP a 10 anni ai massimi da ottobre. Moody's: l'Italia può riaccendere la crisi europea. Dopo la prova elettorale e la resa dei conti nel PD, si ragiona su un governo a termine coi 5 Stelle. Interrogatorio in carcere per l'ex capo di Finmeccanica Giuseppe Orsi. Una buona giornata dalla redazione, da Laura.